La vita in un film di Franco D'Assisi. La mia storia comincia nel 1935. Avevo 19 anni e mia madre allora faceva dei grandi progetti su di me. Pensava che io potevo aspirare a qualsiasi successo. Eravamo poverissime, ma la mia bellezza le appariva come una ricchezza da sfruttare. Secondo lei, dovevo servirmene senza scrupolo. Era Gina Lollobrigida nella Romana, la clip con la quale abbiamo aperto la puntata di oggi della Vita in un film, il nostro programma che tutti i giorni a quest'ora per una mezz'oretta ragiona attorno al cinema e all'identificazione che troviamo di noi stessi dentro il cinema. Ogni giorno un tema, ogni giorno un argomento e ogni giorno un punto di vista, quello dei nostri ascoltatori, come sempre benvenuti e attesi all'800 24 00 24 per chiacchierare con noi e dirci in quale film hanno rivisto una parte del loro percorso, della loro vita, di se stessi, di qualcuno che conoscono, in quale film insomma si sono particolarmente immedesimati proprio partendo dal tema del giorno. Oggi parliamo di bellezza, quindi non abbiate paura, se vi sentite particolarmente belli o particolarmente belle soprattutto, telefonate 800 24 00 24 perché certo il match è impari, perché le bellezze del giorno sono davvero straordinarie, però ognuno di noi dentro di sé può darsi che senta una bellezza sua, personale, assoluta, e allora perché non telefonare? Il numero è qui a disposizione. Come dicevo, però, Gina Lollobrigida è l'incarnazione che abbiamo voluto dare a questo tema di oggi, anche abbastanza impegnativo nel suo titolo, che è la donna perfetta. Qual è la donna perfetta della storia del cinema? Qual è la donna perfetta, quel mix di bellezza, certo, ma anche di intelligenza, di classe, che abbia magari avuto quel qualcosa in più. Quindi noi non abbiamo voluto selezionare delle maggiorate e basta, per intenderci. Abbiamo voluto stare su uno spettro un po' più ampio di concetto di donna perfetta. La donna perfetta, quindi, ricorderete quel film con Nicole Kidman di qualche anno fa, nel quale appunto si costruiva quasi una donna appunto perfetta, che aveva poi le sembianze di Nicole Kidman, ma anche Gina Lollobrigida appunto, che ha interpretato film molto impegnativi. Ne parleremo fra poco con lei, che sarà nostra ospite, con titoli abbastanza altisonanti, per esempio La donna più bella del mondo, e come dimenticare Il derby tutto italiano con Sofia Loren, e come dimenticare La bellezza selvaggia di Brigitte Bardot, come non citare ovviamente quello che è stato il sex symbol di tutti i tempi, Marilyn Monroe. Ma potremmo andare avanti davvero con tante, tante attrici che hanno regalato un'icona, diciamo così, universale e soprattutto eterna probabilmente alla storia del cinema. 800 24 00 24 quindi per intervenire a questa puntata della Vita in un film, per raccontarci la vostra donna perfetta della storia del cinema. Noi dicevamo, abbiamo scelto una di queste contendenti, appunto Gina Lollobrigida, e l'abbiamo intervistata, e quindi ascolteremo le sue parole durante questa nostra puntata, cominciando proprio dal concetto stesso di bellezza. Una donna, Gina Lollobrigida, che ha, diciamo così, aggiunto al suo ruolo di attrice anche tante altre capacità e talenti artistici, quello di cantante, l'abbiamo sentita cantare molto spesso e cantava sempre lei, tra l'altro, nei film che ha interpretato, ma anche altri talenti che sono venuti fuori un po' più tardi perché ne ha avuto la possibilità e il tempo, come quelli di fotografa, come quelli di scultrice, di pittrice, insomma, artista tutto tondo. E allora cos'è per lei, artista tutto tondo, la bellezza? L'arte è bellezza, ci deve essere sempre un lato positivo, quindi anche quando uno deve descrivere la fame nel mondo, uno fa un'opera che comunichi l'emozione, perché se una cosa è brutta non c'è comunicazione, quindi non è arte, quindi non è l'arte, per me è bellezza. Gina Lollobrigida quindi dice l'arte è bellezza in assoluto, è praticamente un sinonimo. 800 24 00 24, La donna perfetta è il titolo della puntata di oggi della Vita in un film, e chiaramente l'invito è quello a partecipare, a raccontarci, a dire la vostra ovviamente in questo senso. Vi ricordo che come sempre sono qui che vi aspettano un bel po' di biglietti per il cinema, per la stagione che ormai si sta avviando, sta entrando nelle sue prime fasi importanti. Dalla prossima settimana tanti nuovi film sale italiane, poi il Festival di Venezia, poi siamo a settembre e arriva il clou della stagione. Quindi potete prenotarvi qualche serata di buon cinema telefonando all'800 24 00 24. Noi andiamo avanti con Gina Lollobrigida intanto, la nostra donna perfetta simbolo di questa puntata, perché, come dicevo prima, Gina Lollobrigida ha avuto la possibilità di interpretare alcuni ruoli molto impegnativi sotto il profilo dei titoli dei film. Pensiamo appunto alla Donna più bella del mondo, ma anche a Venere imperiale, pensate quale ingombro, insomma, di importanza e di bellezza, o addirittura uno dei simboli della bellezza dolce del mondo, la fata turchina di Pinocchio. Insomma, ruoli assoluti in questo senso. Si è sentita lusingata? Diciamo, ne sono stata fortunata perché ho fatto molti personaggi femminili anche abbastanza, diciamo, universali, conosciuti, come la Regina di Saba, come la Paolina Borghese, come la Romana di Moravia, come la Bersagliera, che in fondo era un personaggio creato per l'occasione da me, è riuscita a tal punto che è nello stesso piano di questi personaggi storici. Io non mi sentivo sicura nelle cose che facevo, perché c'era sempre la voglia di essere perfetta, ma non si arriva mai alla perfezione, e poi la perfezione non esiste. Un personaggio è bello con i suoi difetti, i suoi pregi. E quando uno fa, diciamo, interpreta un personaggio, deve aderire a quel personaggio. Non siamo noi, è una rappresentazione di una realtà che non è la nostra, insomma, siamo interpreti di un personaggio che non siamo noi. Noi nella vita siamo un'altra cosa. I fiori di Sergio dove sono, Carmela? C'è tutta Parigi, ma lui no. Oh, ma è impossibile, hai guardato bene? Sì, Lin, guarda, non è meraviglioso? Con l'ammirazione e l'amore del conte Lefebvre. Restituiscila, restituisci tutto quanto. Bella, elegante, famosa, ma inutilmente, madame, cavaliere. E questa era Gina Lollobrigida appunto in La donna più bella del mondo, un film nel quale cantava tanto, perché era appunto Lina Cavalieri, questa straordinaria artista dell'inizio del Novecento. Noi abbiamo in linea, o forse non più, mi dicono non più, un primo ascoltatore che ci aveva chiamato all'800 24 00 24. La donna perfetta è il tema della nostra trasmissione di oggi. Diteci semplicemente se vi siete immedesimate, tanto meglio, ma altrimenti semplicemente qual è il prototipo di donna perfetta da storia del cinema che avete in mente, magari anche che scollinando e andando un po' fuori strada dai percorsi che possono venire in mente più naturali, che sono appunto quelli della nostra ospite di oggi, Gina Lollobrigida, di Sophia Loren, di Marilyn Monroe o di altre. Allora mi dicono che forse abbiamo ripristinato il collegamento con il primo ascoltatore all'800 24 00 24, Alberto da Pavia. Buonasera Alberto. Buonasera a voi. Eccoci qua, allora ci racconti un po'. Mi ha colpito il tema che state trattando e al ritorno dal lavoro stavo appunto pensando quale per me è il film che più rappresenta la bellezza. Di sicuro non bellezza mia, però tutte le donne che vedono questo film sono entusiaste, ed è La morte ti fa bella. La morte ti fa bella, beh, anche una scelta abbastanza particolare, perché come dice anche del soprannaturale in questa scelta. Sì, no? C'era questa figura femminile demoniaca molto molto bella e queste donne che sognavano appunto questo, diciamo, filtro per mantenersi belle, anche un po' finte però belle. Questo è un tema anche attuale, col fatto che un po' si sogna di essere belle per sempre. Questo è assolutamente un tema che tra l'altro fra poco tratteremo con Gina Lollobrigida, che è nostra ospite. Ma lei, dovendo scegliere la bellezza perfetta di questo film fra Goldie Hawn e Meryl Streep, su chi andrebbe? Ah, sicuramente Goldione, quindi questa è una scelta abbastanza particolare. Grazie ad Alberto da Pavia. 5 serate di grande cinema con il cofanetto Wazoo, ma altri biglietti per il cinema qui a disposizione di chi ci chiamerà all'800 24 00 24. La vita in un film si inizia prendendo una donna insoddisfatta e cupa, quindi lui delicatamente mette la sua lei in un sistema di miglioramento femminile. È del tutto automatizzato. Abracadabra. La trasformazione ha inizio. Prima si localizza il cervello, dove inseriamo alcuni nanochip. Poi si programma. aggiungiamo anche qualche ingrediente speciale. Infine, la miglioriamo, perché risponda alle specifiche della moglie perfetta di Stepford. E voilà! E questa era La donna perfetta, appunto, 2004, film di Frank Oz con Nicole Kidman, che incarna il prototipo, tra l'altro un remake di un film che si intitolava La fabbrica delle mogli del 75, appunto in questo mondo in cui questa donna di successo appunto viene creata un po' dal nulla e poi impera in un certo senso. 800 24 00 24, La vita in un film, parla oggi della donna perfetta, e c'è un simpatico SMS al 349 238 6666 da parte di Roberto, che dice che la donna perfetta è Marge Simpson, e quindi la signora Simpson dai capelli blu, davvero straordinaria, molto simpatica. Beh, effettivamente affascinante lo è, senza ombra di dubbio, molto simpatica. Diceva prima Alberto da Pavia, che ci ha telefonato, che appunto il film che gli ricordava una bellezza assoluta era La morte ti fa bella. La morte ti fa bella appunto ruotava attorno al tema del tentativo di tenere eterna la bellezza, no? E in questo senso noi abbiamo proprio fatto una domanda specifica a Gina Lollobrigida: la bellezza come fenomeno passeggero. Gina Lollobrigida oggi è ancora una donna estremamente affascinante, tra l'altro ha un'età, insomma, come dire, che non è più giovanissima. Cosa direbbe a tante ragazze di oggi che sembrano pensare proprio di poter rimanere ventenni per sempre? La vita va vissuta come è, cioè uno deve vivere con intelligenza gli anni della gioventù, ed è molto difficile, quelli dell'età avanzata diventa più difficile, ma basta pensare che ogni anno che viene uno acquista delle cose nuove e lascia delle cose che non interessano più, cioè il passato importa in quanto ti fa diventare quello che sei oggi, ma ogni giorno va vissuto con lo stesso entusiasmo, perché ogni giorno c'è qualcosa di nuovo nella vita che va vissuto, che va accettato. E voi siete per Nicole Kidman o per Marilyn Monroe, per Brigitte Bardot o per Gina Lollobrigida, che è la nostra ospite? Insomma, bellezze di ieri, bellezze di oggi, come è cambiata la bellezza e soprattutto cosa c'era nella bellezza di un tempo che oggi si è perso? Gina Lollobrigida. Si era molto più naturali ai miei tempi, oggi le ragazze ormai vanno dal parrucchiere, dal chirurgo quasi con la stessa frequenza, si somigliano troppo quelle di oggi, cioè sono tutte un po' pettinate alla stessa maniera, si truccano alla stessa maniera, non c'è diversità tra l'una e l'altra. Insomma, ai miei tempi eravamo così delle belle ragazze, ma avevamo forse una naturalezza e non seguivamo la moda come le ragazze che sembrano tutte uguali, perché avevamo una nostra personalità e non volevamo essere perfette al 100%, eravamo quello che eravamo. Oh, ma me lo dici tu a che servi di la verità? Ma la femmina è la bersagliera, e dica non è lo vero. Non ti credesse nemmeno papà Bonanima all'altro mondo, che io son nata per fare la mala femmina, perché sti lazzaroni quando passa me te sfogliano con gli occhi. E questa era la bersagliera che ha dato tanta fama alla nostra Gina Lollobrigida, qui in Pane, Amore e Gelosia, sequel in un certo senso di Pane, Amore e Fantasia. Siamo in collegamento con un altro ascoltatore all'800 24 00 24, Alberto da Varese. Buonasera Alberto. Buonasera, un saluto anche alla signora Lollobrigida, che considero ancora oggi una icona immortale della bellezza, senza nulla togliere alla signora Lollobrigida, però personalmente. Ma noi l'abbiamo scelta apposta. Senza voler far torto a nessuno, ripeto, ritengo che una delle icone della bellezza ancora oggi, secondo me, valida ma ineguagliata, è la bellezza di Audrey Hepburn, e in particolar modo viene celebrata in A colazione da Tiffany, che tra l'altro hanno recentemente programmato in televisione. Trovo sia un connubio fantastico di di bellezza, di grazia, di eleganza. Non a caso anche Audrey Hepburn ha creato delle tendenze, delle mode. Il famoso è il suo tubino nero, per assolutamente esempio. Adesso c'è una giovane stilista newyorkese che sta indossando un tubino nero tutti i giorni, lo stesso tubino nero, cambiando solo gli accessori, fotografandosi e mettendosi su internet per dimostrare quanto quel capino faccia l'eleganza immortale e storica. Insomma, ha creato un'epoca, sì, è stata una pietra miliare, direi, nella storia dell'eleganza, nella storia del bel vestire, insomma, e poi la bellezza sua. Assolutamente eterea, esatto, qualcosa che forse appunto in tempi recenti solo certi momenti di Nicole Kidman possono forse avere ricordato, anche se siamo in pianeti diversi, ma insomma questa grande sottigliezza, no? Questa quasi situazione appunto eterea. Allora grazie anche Alberto da Varese, che oltre a portarsi a casa due serate di cinema con La vita in un film, grazie a Audrey Hepburn, può ascoltare, perché l'abbiamo ripescato dalla nostra audioteca, un altro film di Audrey Hepburn nel quale la nostra si trasforma, ecco, c'è il senso della trasformazione, cioè trasformarsi in signore, era un po' il tema di questo straordinario musical che si chiamava My Fair Lady. Tu resterai qui per i prossimi 6 mesi ad imparare a parlare e a pronunciare come una signora della buona società. Se sarai brava e farai quello che ti si dice, dormirai in una bella camera, avrai il vitto e denaro per la cioccolata e per fare gite in tassi. Se sarai cattiva e oziosa, dormirai giù in cantina in mezzo agli scarafaggi e sarai picchiata dalla signora Pierce col manico della scopa. Alla fine dei 6 mesi ti porteremo al palazzo reale in carrozza e con un magnifico vestito. Se il re si accorgerà che non sei una vera signora, la polizia ti porterà in un oscuro carcere dove ti taglieranno la testa. Ma se tutto andrà bene, tu riceverai in regalo una certa somma di denaro per cominciare la carriera in un negozio. Queste erano le promesse, anche le minacce per My Fair Lady e appunto per Audrey Hepburn. Allora, noi siamo sempre in attesa delle vostre chiamate all'800 24 00 24. Abbiamo un sms di un ascoltatore o ascoltatrice che ci dice: Fanny Ardant nei film di Truffaut, la musa ispiratrice di Truffaut, certo un'altra donna estremamente affascinante, di una bellezza decisa, marcata, ma di grande sensualità. E noi torniamo a parlare proprio di seduzione, questa volta con Gina Lollobrigida. Come è cambiata la seduzione dalla donna preda dei suoi tempi alla donna cacciatrice di oggi? Beh, oggi è tutto esasperato, nella volgarità, nella violenza, insomma è diventato molto più volgare il cinema che si vede oggi e quello che si vede in televisione di quello che si faceva una volta. La seduzione era meno accennata, oggi c'è un'esasperazione. What are you doing? Taking your advice. Huh? If a woman's too easy to get, a man will never take her seriously. Stupida, cretina, idiota! Oh, it's just something I told some impressionable young girls. To protect their morals. Sure. What about my morals? What's that got to do with it? We're adults. Ah. Lisa, look, if you'll just calm down... Don't touch me! You're not making any sense. I don't have to make sense. I'm Italian. Ci sono degli uomini molto più interessanti di te qui in Italia. Cosa credi? Sono stufa degli americani, stufa. English talking, I can't understand. Ah, that's another thing. If you love me, you'd have learned my language. E qui non abbiamo sbagliato. Era proprio Gina Lollobrigida in Torna a settembre. Gina Lollobrigida, che si è disimpegnata molto spesso, oltre che cantare molto bene, molto spesso ha dovuto al cinema anche recitare in lingua originale, in questo caso in inglese. La sentivamo litigare appunto un po' in inglese, un po' in italiano in questo straordinario film, appunto Torna a settembre, con Rock Hudson. Ed è il film che ci segnala, tra l'altro, Fabio, che ci sta ascoltando, che fa i complimenti a Gina Lollobrigida e dice che è un film dove è bellissima e recita alla grande. Ed è davvero così, un film abbastanza da riscoprire, non l'unico, ripeto, di una carriera hollywoodiana importante per Gina Lollobrigida. 800 24 00 24, ancora qualche minuto per chiacchierare con noi sul tema la donna perfetta, appunto, sempre con la lente di ingrandimento del cinema. C'è Claudio in collegamento da Milano. Buonasera Claudio. Buonasera a tu, buonasera a lei, buonasera a tutti. Buonasera. A me ricordava proprio questo film della donna perfetta, come l'ideale di bellezza non sia tra virgolette, non sia di questo mondo. Cioè, bisogna inventarlo, bisogna crearlo, bisogna costruirlo, ma non è di qui, insomma, come dire, non esiste la donna perfetta se uno la vuole la deve costruire, e quindi è una cosa quasi impossibile da vivere, non che questo non sia una cosa da ricercare, però come dire, la bellezza perfetta non c'è. Se non una cosa finta e meccanica. E forse anche un filino individuale, un filino, sì, come dire, no? Cioè, noi abbiamo cercato di oggettivizzare, no, il possibile. Sì. È chiaro che ci sono attrici che hanno incarnato, ha visto, ne sono venute fuori tante durante questa nostra chiacchierata, hanno incarnato un po' questo ideale di donna, però certo abbiamo visto tirare in ballo Goldie Hawn, che magari non è appunto una bellezza assoluta ai livelli di Marilyn Monroe o di Brigitte Bardot, però effettivamente c'è quel taglio personale. E c'è quello che ognuno di noi cerca dentro questa qualità, appunto, che è la bellezza. Grazie anche a Claudio da Milano, 2 biglietti per il cinema anche per lui. La bellezza, classe ed eleganza di una principessa, l'indimenticabile Grace Kelly. Bravo Antonio di Guardia Grele, rischiavamo di dimenticarcela, invece, ma chissà quante ce ne stiamo dimenticando, ovviamente, e invece non era davvero il caso, perché Grace Kelly è stata un'altra di quelle icone di bellezza davvero assolute. E allora noi siamo arrivati quasi in chiusura, ritorniamo da Gina Lollobrigida e le chiediamo, tra tutte le sue eroine, insomma, di bellezza che ha potuto trattare nella sua carriera, in quale trova una traccia della Gina Lollobrigida così com'è. Sentiamo. Ma diciamo, personaggi che rivedo volentieri dopo tanti anni, c'è per esempio la Esmeralda di Notre Dame de Paris, è un personaggio straordinario. È un altro personaggio, appunto, la Venere Imperiale, la sorella di Napoleone, la Paolina Borghese, un personaggio pieno di sfaccettature, un personaggio femminile straordinario, uno dei più belli, credo, della mia carriera. Poi ce ne sono tanti altri, insomma, Panamore e Fantasia, Il Trapezio, un film meravigliosamente diretto da Carol Reed, Mare Matto, uno dei film dove ho interpretato un personaggio che apparentemente era il contrario, ma il regista Castellani, che era un regista intelligente, me lo ha offerto a me proprio per mettermi alla prova, ed è uno dei personaggi più belli che ho fatto, ed era una zitella acida, genovese, brutta, quindi insomma nel cinema si possono fare dei personaggi diversi, dare il meglio di se stessi, e Mare Matto è uno dei personaggi più belli che ho interpretato, eppure insomma una zitella acida, brutta, nessuno avrebbe avuto l'idea di offrirlo a me, ma un regista intelligente come Castellani aveva visto il giusto. Grazie a Gina Lollobrigida, si chiude la puntata della vita in un film. Domani torniamo alle 18 e parleremo di amicizia goliardica, di scherzi, insomma, amici miei, per intenderci, con Mario Monicelli. A domani.